che vuole questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato. La luna ci teneva compagnia, io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia. Vorrei tenerti qui vicino a me, adesso che fra noi non c'è più nulla. Vorrei sentire ancora le tue parole, quelle parole che non sento più. Il mondo intorno a noi non esisteva, per la felicità che tu mi davi, che me ne faccio ormai di tutti i giorni miei. Che vuole questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato. Che mi riporta un poco del tuo amore. Che mi riporta un poco di te. Che mi riporta un poco del tuo amore.